Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra, l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda la borsa: siamo a un calo dello 0,87% a Milano, più accentuato che altrove, nel senso che altri indici, mi riferisco per esempio a Parigi, sono allo 0,9, Londra va meglio, oddio, oscilla anch'essa tra lo 0,90 e l'1%, Francoforte meno 1,3%, l'America invece va decisamente meglio, anche se negativa, meno 0,32%. Come mai? Di nuovo deboli bancari, ne parleremo di banche ma per un altro aspetto, tranne il Monte dei Paschi che guadagna il 3,20 e UbiBank che guadagna l'1,77%. Questo nel giorno in cui si è tenuto un'altra asta di titoli di Stato italiani e di nuovo è andata benissimo. Perché lo dico? Perché sono stati collocati 3 miliardi e mezzo di BTP a 3 anni con un rendimento che è al minimo storico, ossia lo 0,93%. Un altro minimo storico, ricorderete, era stato raggiunto ieri dal BOT a 1 anno con un interesse dello 0,58%. Pensate che solo lo scorso ottobre il BOT a 1 anno rendeva quasi il doppio, lo 0,9%. Lunedì è in programma un nuovo collocamento del cosiddetto BTP Italia, quello che è indicizzato all'inflazione italiana, e il calo dei rendimenti, come ricordavamo anche ieri, quindi il fatto che l'Italia debba spendere di meno come interessi per trovare, offrire interessi più bassi, può offrire interessi più bassi per trovare finanziatori per il suo debito, significherà un risparmio quest'anno di 9 miliardi di euro e potrebbe, se venisse mantenuta questa situazione, salire il risparmio per l'Italia a 15 miliardi nel 2015, vuol dire praticamente una manovra finanziaria in più. Noi spendiamo circa 80 miliardi di euro all'anno solo per pagare gli interessi sul nostro debito. Perché lo dico? Perché molti ci chiedono, ma com'è possibile che ci sia tutto questo ottimismo sui mercati nei confronti del debito italiano, ma anche nei confronti del debito spagnolo e, come abbiamo visto ieri, anche nei confronti del debito greco? Per la prima volta la Grecia, da quando è entrata in crisi, è riuscita a collocare 2 miliardi di obbligazioni sul mercato. Ce ne occuperemo nella seconda ora del programma perché, in effetti, l'ottimismo, la fiducia degli investitori sia sul fronte del comprare debito ma anche dell'investire nell'area euro, ma si sposano con quelle che sono le previsioni di crescita nel caso specifico dell'Italia per quest'anno molto modeste, e comunque anche l'anno prossimo non si andrà oltre l'1,5%. Che cosa spinge così tanti investitori a comprare a rendimenti minimi, appunto da record minimo, il debito italiano? Sarà uno degli argomenti della seconda ora del programma. Parleremo invece in apertura anche, oltre che della borsa, come sempre, parleremo dei bonus in busta paga, o meglio, secondo le simulazioni pubblicate da Sole 24 Ore oggi, che cosa potrebbe portare il taglio dell'IRPEF che dovrebbe partire da maggio, i famosi 722 euro lordi l'anno, 800 euro nel 2015, il taglio del cuneo fiscale, della pressione in busta paga dell'IRPEF è pari a 6,7 miliardi. Dico subito che i maggiori beneficiari saranno i dipendenti che guadagnano tra i 21 e i 26 mila euro lordi l'anno. La cifra dei famosi 80 euro in più al mese è in sostanza quella per chi guadagna 24 mila euro lordi l'anno. Dai 35 mila euro in su il bonus praticamente si azzera, per cui il vantaggio è per quella fascia di lavoratori a basso reddito, obiettivamente. Ne parleremo, dicevo, più avanti. Parliamo anche della Grecia, perché oggi è arrivata Angela Merkel in una Atene blindata, 6.000 poliziotti, dopo l'autobomba esplosa ieri davanti alla banca centrale greca e gli uffici della Troika in Grecia, quindi BCE, Fondo Monetario e Unione Europea, e delle, diciamo, esortazioni arrivate da Angela Merkel ad Atene. Angela Merkel ha detto: sono venuta ad Atene per imparare da voi, per ascoltare le vostre preoccupazioni e per vedere i progressi che avete fatto. Ha preso la parola durante un incontro con i giovani imprenditori greci e appunto una visita che durerà solo questa giornata, dove arriverà anche la firma del memorandum d'intesa con il premier greco Antonis Samaras per l'istituzione di un fondo di investimenti che è praticamente la fotocopia ricalcato sul modello del fondo statale tedesco KfW. Dovrebbe servire ad aiutare la liquidità delle piccole imprese greche. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Ragione, poi ne parleremo. Se c'è una famiglia in cui marito e moglie guadagnano ognuno 25.000 euro e quindi in famiglia hanno 50.000 euro lordi, ognuno ha diritto a uno sconto fiscale di 80 euro al mese, 160 euro in tutto. Se invece la famiglia è monoreddito e un reddito di 40.000 euro, pur avendo magari moglie e figli a carico, non c'è alcun beneficio. È vero, è uno dei rischi per quello che poi bisogna capire bene come passerà la legge sul fronte delle detrazioni per i familiari a carico, altrimenti questo rischio è un rischio possibile. I conti di JP Morgan, che ha chiuso il primo trimestre 2014 con profitti in calo del 19%, ha ridotto infatti di molto i ricavi nel settore mutui e nella divisione reddito fisso. Per quello che riguarda invece i temi di casa nostra, la Banca Centrale Europea è risoluta nella sua determinazione a mantenere una politica monetaria altamente accomodante e non esclude un nuovo taglio dei tassi di interesse, un nuovo allentamento monetario, come si chiama in gergo. Lo ha ribadito il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel discorso depositato al braccio operativo del Fondo Monetario Internazionale. La Banca Centrale Europea conferma che è pronta ad agire se necessario. L'inflazione resterà bassa per qualche tempo, dice sempre la BCE, ed è consapevole dei rischi che una bassa inflazione può portare. Inflazione. Allora, in Germania è all'1% all'anno, con un aumento mensile dello 0,3%, mentre in Spagna si conferma che il paese è entrato in deflazione, meno 0,2% l'andamento dei prezzi in Spagna rispetto a un anno prima, sempre per il mese di marzo. Una buona notizia arriva invece per il Portogallo. L'agenzia di rating Fitch ha infatti rivisto la prospettiva sul debito portoghese, portandolo da negativo a positivo. Sono stati apprezzati, si legge nel report dell'agenzia, gli sforzi sul bilancio e sulla stabilizzazione generale dell'economia portoghese. Dicevamo del BTP italiano, c'è oggi un'intervista sul Sole 24 Ore del co-CEO, quindi co-amministratore delegato, diciamo, di Goldman Sachs, Richard Njord, che parla di un ritorno di fiducia degli investitori verso l'Italia, motivato anche dal venire meno dei timori sulla tenuta dell'euro. Però avverti, i mercati si attendono conferme, il governo Renzi è percepito come enterprise friendly, quindi amico di chi vuol fare impresa, ma deve attuare le riforme promesse come quelle del mercato del lavoro. Le esportazioni italiane hanno tenuto nonostante la crisi e nonostante l'euro forte, questo significa che molte imprese italiane sono competitive. Oggi ci becchiamo anche il giudizio del Fondo Monetario Internazionale sulla riforma del mercato del lavoro. Dice infatti il capo del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale, Azim Hussein, dice bene la riforma del mercato del lavoro, occorre riequilibrare comunque i conti italiani, questo è essenziale per la crescita, e chiede che i tagli alle tasse e alla spesa pubblica siano permanenti. Nel giorno in cui Matteo Renzi, il premier, quindi ha escluso una manovra bis, è la prima volta che facciamo una manovra che invece che prendere taglia da una parte e restituisce i soldi. In molti non sono abituati, ma è bene che se ne facciano una ragione, anche perché per i prossimi anni sarà così. E poi ha continuato Renzi: siamo una repubblica fondata sul lavoro ma affondata sulle rendite. Noi abbiamo parlato di lavoro sempre in questi anni, ma cos'è il lavoro? Il lavoro non è semplicemente un fattore economico, è un fattore di dignità, è un fattore di bellezza. Noi siamo una repubblica democratica fondata sul lavoro, però affondata sulla rendita in questi anni. Chi ha sempre avuto di più. E chi la mattina si alzava per andare a lavorare aveva il sistema di pressione fiscale sul lavoro più alto d'Europa. Ce l'ha ancora, Non è che siamo arrivati noi e è cambiato il mondo, anzi. Dobbiamo ancora dimostrare quello che valiamo. Però restituire dignità e valore al lavoro significa, uno, semplificare le regole sul lavoro. Che non vuol dire precarizzare, anche perché più precari di così dovete spiegarmelo che cosa vuol dire. Semplificare il lavoro vuol dire che un artigiano, un datore di lavoro, un imprenditore deve avere la certezza delle regole e non può pensare che deve avere paura ad assumere qualcuno. Noi non possiamo immaginare che oggi il sistema sia fatto da 2100 norme diverse, complicate. Fin qui tutto bene, nel senso che come dar torto al Presidente del Consiglio, poi vedremo quello che appunto riuscirà a fare con le riforme, che ci sia un meccanismo, in parte adesso forse corretto, ma solo in parte, squilibrato, lo diciamo da anni, squilibrato nel senso che dal punto di vista fiscale fa pagare molto chi lavora, IRPEF e IRAP, e quindi diciamo quanto costa un lavoratore a un'azienda e quanto becca in busta paga, e fa pagare meno chi guadagna tramite la rendita. E lo so che alcuni allora volete la patrimoniale, nessuno vuole la patrimoniale, ma non si può neanche continuare a penalizzare il lavoro e chi assume a vantaggio di chi ha rendite magari ereditate, magari anche non frutto necessariamente del suo lavoro. Nessuno vuole la patrimoniale, ma da qualche parte bisognerà anche scegliere prima o poi se premiare il lavoro o premiare la rendita. E poi sulle banche, il sistema, Matteo Renzi, sempre il sistema del credito deve dare più attenzione non solo alle imprese ma anche agli artigiani. Continua, ci sono parametri che per le grandi aziende invece non valgono mai. Quando c'è stato da trovare le risorse per restituire a chi in busta paga non ce la fa arrivare alla fine del mese, a chi sta sotto i 25.000 euro, abbiamo chiesto un sacrificio anche a quelle banche che non possono pensare di essere salvate dagli stati, come è accaduto non in Italia ma in Europa, e non essere pronte a fare la propria parte per dare un contributo alla vita di tutti i giorni delle famiglie. Noi abbiamo bisogno che da parte del sistema del credito, che è un sistema che noi rispettiamo e incoraggiamo, ci sia un'attenzione ancora più forte, perché non è possibile, non è accettabile che il piccolo artigiano si veda negare un mutuo o un fido o un affidamento o chiedere di rientrare immediatamente perché il mondo è perché ci sono i parametri, e poi questi parametri per i grandi gruppi, per le grandi lobby, per le grandi aziende non valgano mai. Allora da questo punto di vista c'è bisogno di rimettersi con le stesse regole che valgono per tutti. C'è chi dice: ma cos'è, focus economia o focus demagogia? Immagino, criticando le parole di Renzi, però attenzione, insomma, personalmente però è difficile criticare queste parole, altra cosa è vedere e andare a giudicare se a queste parole seguiranno i fatti. Ma è difficile negare che, ne abbiamo parlato molte volte, Basilea 3 vale solo per chi, per i piccoli, per i medi, e in realtà abbiamo visto e tanti casi abbiamo raccontato di grandi buchi, di grandi crediti concessi a chi non riesce più a ritornarli. Insomma, tutto questo è abbastanza, diciamo, in quello che vediamo. Sempre sul tema della pressione fiscale, Renzi oggi, sempre dal Salone del Mobile di Milano, ha toccato anche il tema dell'evasione fiscale, niente spot, ma controlli incrociati. La semplificazione del modello di lavoro significa anche avere il coraggio di dire che oggi uno che va a lavorare e che prova a aprire un'azienda deve essere incoraggiato. Il pubblico deve dirgli grazie, non deve mettergli i bastoni tra le ruote. Se tu apri un'azienda, io Stato, io Presidente del Consiglio, ti devo dire non soltanto in bocca al lupo, ma ti devo dire faccio il tifo per te. Non posso pensare che un artigiano sia sempre soltanto potenzialmente un distruttore di bene comune, perché è sicuramente un evasore. Io mi devo preoccupare di fare delle regole del fisco semplici. Io mi devo preoccupare che tutti paghino. Io mi devo preoccupare che la battaglia per l'evasione non si faccia con le battaglie spot, una sera a Pontevecchio, una sera a Cortina, ma sia un modo sistematico con l'incrocio delle banche dati e dove i furbi non facciano i furbi e chi può la vedere. Allora, qui possiamo essere un po' maliziosi, questo riferimento a Cortina, di cui Befera ha rivendicato pochi giorni fa l'effetto, i 2 milioni recuperati, a me sembra un po' un ben servito a Befera, non ha fatto il ministero Befera che andrà in pensione, quindi forse è anche un ben servito inutile, quantomeno una critica al modo in cui ha operato l'Agenzia delle Entrate nei famosi controlli a sorpresa a Cortina e in altre località. Per quello che riguarda invece i nomi delle partecipate Eni e Enel, Finmeccanica in primo luogo, Renzi ha confermato che lunedì il governo presenterà i nomi. Tra l'altro non ha mollato il Premier sul taglio degli stipendi dei manager. Dice che l'aumento delle loro retribuzioni, manager pubblici, delle loro retribuzioni in questi anni è inaccettabile. Loro cercheranno di farcela pagare, ha continuato Renzi, ma su questa vicenda andremo avanti fino alla fine. Questo nel giorno in cui apprendiamo dall'OCSE che il salario medio in Italia è aumentato dell'1,3% nel 2013, quindi meno dell'inflazione. L'inflazione è cresciuta poco, ma dell'1,4%, e apprendiamo anche che l'Italia, qualcuno ricorda la battuta, che non è una battuta che facemmo, dicendo insomma un paese che ha tanti risparmi, magari un risparmio per comprare la casa, il monolocale al figlio, e invece potrebbe usare questi soldi per far studiare il figlio nelle migliori università o nei migliori istituti che ritiene, cioè investire più nella sua formazione che nell'appartamento, perché se poi il figlio ce l'ha disoccupato, va nell'appartamento e guarda le pareti. Molti di voi mi criticarono, ma io resto di questa idea. Beh, oggi i dati Eurostat 2013 fotografano un'Italia che è maglia nera, cioè all'ultimo posto in Europa per numero di laureati. La percentuale di italiani tra i 30 e i 34 anni che hanno completato gli studi universitari è del 22,4%, la media europea è del 37%, meglio di noi fanno anche Romania, Croazia e Malta, in Irlanda siamo al 52% e in Lituania al 51%. Male anche per gli abbandoni a livello di scuola secondaria, l'Italia è quintultima con il 17% degli abbandoni contro una media europea dell'11,9%. Parleremo anche diciamolo subito questa notizia, il numero uno di Unicredito, Federico Ghizzoni, ma anche il direttore generale Roberto Nicastro e il CEO Paolo Fiorentino, l'intera squadra e comunque l'intera squadra dei top manager di Unicredito non riceveranno bonus nemmeno quest'anno, lo hanno annunciato ufficialmente. Negli anni precedenti vi avevano rinunciato e hanno tagliato i bonus a 120 manager sempre del gruppo Unicredito. Allora, dopodiché lo stipendio complessivo di Ghizzoni per il 2013 è stato di 2.300.000 euro, e per Nicastro di 1.500.000 euro. Il presidente Giuseppe Vita ha percepito 1.300.000 euro, e i vicepresidenti hanno percepito tra i 600.000 euro e i 320.000 euro. Ricordo che Unicredito ha chiuso il 2013 con perdite di 14 miliardi di euro, dovute in primo luogo alle coperture, agli accantonamenti su crediti che ormai sono più che incagliati, sono di difficile esigibilità. Ancora due notizie, poi raccontiamo invece di quanto grasso ci sia ancora nella macchina pubblica da asciugare. Però il GUP di Trani ha rinviato a giudizio 5 dirigenti e funzionari di American Express per truffa e usura ai danni dei cittadini della provincia di Barletta, Andria e Trani, in relazione all'erogazione di prestiti che sono da usura nella vicenda delle carte di credito di tipo revolving. 349-238-6666 per i vostri sms. Prima di arrivare alla borsa, visto che è venerdì, torniamo su una rubrica di cui dico sempre faremo volentieri a meno, ma insomma qualche spunto per Cotarelli, per chi ancora si occupa di spending review, ce l'abbiamo anche oggi. Allora, sono 400 i poliziotti e i carabinieri in servizio a Montecitorio per proteggere 630 deputati, non fate le battute, proteggono i deputati veramente. Allora, vediamo però come sono dislocati. I poliziotti in servizio presso l'ispettorato interno a Montecitorio sono 200. Altrettanti i carabinieri dell'omologo comando, quindi 400 in totale. Interessante che ci siano 400 poliziotti per difendere 630 deputati quando in una normale periferia romana troviamo un poliziotto ogni 2100 abitanti. Qui siamo quasi a più di uno ogni due deputati. Ai dipendenti del Viminale è affidata la sicurezza interna a Montecitorio, oltre che la scorta del presidente e dei suoi predecessori, e anche la sicurezza di tutti gli altri palazzi della Camera. Ai militari dell'arma invece spetta la vigilanza all'esterno, da non confondere con le divise che invece vediamo garantire l'ordine pubblico durante le manifestazioni. Quelli sono carabinieri o polizia dei reparti mobili, l'ex cedere per chi ha una certa età. Quanto costa? Beh, non raggiunge i 40 milioni di euro del Quirinale, che comunque, lo dico con massimo rispetto, il Presidente della Repubblica, è uno scandalo, 40 milioni di euro per la sicurezza del Quirinale, ma comunque ci costa 15 milioni di euro l'anno. Perché lo dico? Sarà forse un'associazione troppo facile, ma mentre abbiamo, diciamo, tali costi per difendere il Parlamento e anche il Quirinale, mi rendo conto che a Parma il comando dei vigili del fuoco è ormai sprovvisto di autoscale, che è un dettaglio quando fai il vigile del fuoco, perché o sei Spider-Man o usi l'autoscala di solito. Tutti gli automezzi di dotazione a Parma sono fuori servizio. L'ultimo episodio del 9 aprile si è dovuto ricorrere all'intervento dell'autoscala del carro Teli del comando di Reggio Emilia. Comodissimo se hai voglio dire, un incendio a Parma, che arrivi l'autoscala da Reggio Emilia. Allora, la prima autoscala da 37 metri è del 1996, è fuori servizio a causa della rottura del cestello di cui è dotata. E praticamente non la rendevano più sicura molti altri meccanismi, per cui l'ha messa fuori servizio. Non è stata ancora sottoposta a controllo e quindi il servizio di autoscala dei pompieri di Parma è surrogato da una seconda autoscala risalente al 1974. Cioè, voglio dire, ma che stiamo al museo? Ma non c'è nessun'altra autoscala da altri comandi da collocare provvisoriamente a Parma. L'unico mezzo simile è una piattaforma aerea di 24 metri che si trova al distaccamento volontario di Borgo Val di Taro. Anche lì i tempi non sono proprio quelli che vediamo nei film americani. Poi c'è anche il problema del telo gonfiabile di salvataggio. Da alcuni anni la provincia di Parma ne ha acquistato uno e l'ha ceduto al comando, ma già c'è inutilizzato. Qui la colpa però forse anche del comando di vigili di Parma, dei vigili del fuoco di Parma. Sembrerebbe per motivi riconducibili al suo trasporto e carico scarico durante gli interventi di soccorso, cioè non riescono a trasportarlo, non si capisce che cosa se ne facciano di sto telo. Chiudo su un'ultima notizia. La regione Campania, allora, qui non, la cifra non è enorme, ma è il danno sociale, a mio avviso, che è molto grave. La regione Campania ha deliberato nel 2004 l'apertura di 5 case di maternità dove le donne avrebbero potuto partorire accolte come in famiglia, soprattutto per le donne, per le ragazze madri, ma non solo. Allora, per costruire, arredare e attrezzare la casa di maternità di Pozzuoli, l'ASL Napoli 2 ha ricevuto, con autorizzazione del Ministero della Salute e dell'Economia, 1.036.000 euro e poi altri 426 e 1.500.000. La casa ha iniziato a essere costruita, ma non ha mai visto la luce, non è mai stata aperta. Pensate che da maggio 2008 fino al settembre 2010 la direzione aziendale ha deciso di collocare il servizio psichiatrico di diagnosi e cura nei locali della casa di maternità, facendone anche lavori di adeguamento della struttura vista la nuova tipologia di utenza ospitata. Recentemente la direzione ha deliberato una nuova destinazione d'uso dello stabile, il servizio di anatomia patologica e la direzione sanitaria dell'ospedale di Pozzuoli. Tutto questo in una regione dove il tasso di tagli cesarei è tra i più alti a livello mondiale, e questo meriterebbe poi un capitolo a parte sulla mala sanità. Siccome il cesareo si rimborsa e ci guadagnano tutti, o scopriamo che improvvisamente in Campania e a Napoli c'è un problema, diciamo, nel partorire, oppure dobbiamo immaginare che dietro i cesari ci sia, dietro questo uso patologico dei tagli cesari, ci sia la solita cresta a cui purtroppo siamo abituati. E va bene, chiudo con una buona notizia però. L'ATAC, ricorderete l'ATAC, no? L'azienda dei trasporti romana, che è schiacciata da perdite che quest'anno dovrebbero aggirarsi sui 180 milioni di euro. Ieri il Consiglio di amministrazione ha rimandato nuovamente l'approvazione del bilancio, ma ha deciso di trasferire 323 dipendenti amministrativi. Dov'è che li trasferisce? Questa è una buona notizia. Dalla scrivania agli autobus. Chi non accetterà sarà licenziato. Sarebbe lo studio anche un piano da 1000 esuberi e il dimezzamento dei dirigenti. Faccio notare che con 11.600 dipendenti l'ATAC di Roma ha solo 80 controllori. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Adesso la borsa, poi la Grecia e poi come funzionerà il taglio dell'IRPEF, cioè quali fasce di reddito andrà a favorire, quali invece non vedranno alcun beneficio, e il commento su quello che sta capitando sui titoli di Stato italiani, ma non solo, e cioè il fatto che i rendimenti sono ai minimi storici. È un'ottima notizia per il paese. Allora, qualcuno mi dice: lei vuole la patrimoniale, ce l'ha col risparmio, il 2 per 1000 è una patrimoniale. Ho solo detto che se si deve, se si è obbligati a scegliere dove reperire le risorse, questo paese da 20 anni tassa tantissimo il lavoro, IRPEF e IRAP, il lavoro è chi assume i lavoratori, e ha avuto per anni condizioni di favore anche nei confronti delle rente finanziarie. Ma vogliamo ricordarci ogni tanto dello scudo fiscale di Tremonti al 5% per gente che aveva esportato illegalmente milioni e milioni di euro? Ce ne vogliamo ricordare ogni tanto? Ditemi che questo è un paese che tassa i risparmi e che penalizza la rendita. Allora viviamo in due paesi diversi. Comunque, Chiara Di Cristoforo, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Per quello che riguarda i mercati, oggi devo dire Milano in linea con Parigi, -1,07% nel finale, come Parigi che fa -1,08%, Francoforte tra le peggiori -1,5%, l'America perde lo 0,33%, Londra ha perso l'1,20%. Di nuovo molto deboli i bancari, tranne Monte dei Paschi che ha fatto un piccolo botto, +6%, sì. UbiBanca +1,40%. Allora partiamo da Monte dei Paschi, UbiBanca e poi gli altri bancari. Sì, sono, diciamo, innanzitutto la giornata è stata molto volatile, quindi c'è da considerare questo. Gli indici chiudono in rosso, ma sopra i minimi, e si chiude tutta una settimana di vendite. Adesso stiamo guardando ancora le chiusure finali, ma insomma il FTSE MIB dovrebbe aver perso intorno al 4%. Per il Monte dei Paschi ha fatto questa fiammata proprio sul finale, nelle ultimissime battute della seduta, senza motivi apparenti, ma è passato di mano oltre il 5% del capitale. È un titolo che ci ha riservato molte sorprese, da questo punto di vista è molto volatile. Comunque staremo a vedere se è un movimento. Cioè, da dire, ieri aveva perso quasi il 5, però sì. Comunque il capitale passato di mano è da tenere in considerazione. UbiBanca è l'unico titolo, altro titolo bancario in positivo, +1,4%, mentre invece sono in coda al listino. Troviamo ancora un bancario, la Popolare dell'Emilia Romagna, -3%. Qui c'è un'intervista al presidente Ettore Caselli, pubblicata questa mattina dal Sole 24 Ore, che ha confermato che la banca sta analizzando la propria posizione in merito a un eventuale aumento di capitale, si parlava di circa 500 milioni di euro. Questo è bastato per far scattare le vendite. Allora, questo per quello che riguarda la Popolare Emilia Romagna, poi appunto tu citavi anche altri casi, Azimut -2,70%, come la Pop Milano e Mediaset, adesso arriviamo a Mediaset. Intesa -2,60%, poi cito in ordine ST Microelectronics -2,40% come Jux, il 2,30% lo perde Autogrill, il 2,20% Saip, ma anche Mediolanum e Unipolsai, Atlantia -2% come CNH Industrial, Finmeccanica -1,70% come Buzzi Unicem ed Enel, ma anche World Duty Free e Mediobanca. Allora, Mediaset da un lato e Telecom dall'altro, perché ieri ci siamo occupati dell'accordo con Sky e oggi Telecom Italia, una volta tanto non per la Telecom novella di Team Brasil, ma guadagna lo 0,34%. Sì, infatti per buona parte della seduta era stata in linea più o meno con le perdite del mercato, stamattina faceva meno 1% così, poi ha recuperato. Effettivamente questo accordo firmato con Sky è comunque piaciuto anche agli analisti, insomma il mercato lo apprezza, è una partnership anche se non esclusiva che permetterà ai clienti Telecom che hanno la fibra di accedere a un'offerta televisiva di Sky equivalente a quella via satellite. Già da giugno, tra l'altro, i clienti TIM potranno seguire mondiali di calcio su tablet e smartphone, insomma un'offerta commerciale che il mercato sembra apprezzare. C'è anche un'intervista dell'amministratore delegato Patuano al Sole 24 Ore, che non ha sostanzialmente esclude ancora l'ipotesi di un aumento di capitale, apre all'acquisizione di MetroWeb, mentre della telenovela TIM Brasil, come la chiamai giustamente Telecom tu. Novela per la precisione, è molto più carino, ha detto di non saperne nulla, insomma, quindi ha un po' raffreddato le voci. Citavi invece Mediaset, -1,8 questa mattina, poi è peggiorata nel corso della giornata, chiusura -2,65%. Ieri aveva perso un altro 3%, qui c'è il collocamento da parte di Prisa del 3,7% di Mediaset e Spagna, il prezzo della transazione è stato di 8,08 euro, l'ammontare complessivo oltre 120 milioni, Prisa e Mediaset di fatto sono partner in Spagna insieme a Telefonica anche in Digital Plus e hanno due quote, Prisa al 56% e Mediaset il 22%. Entrambe hanno rinunciato all'esercizio dell'opzione di acquisto del pacchetto di controllo di Digital Plus. Questo è stato il motivo delle vendite in avvio, Mediaset e Spagna è andata bene in apertura. Scusami, è andata bene ieri e molto male oggi anche in chiusura. Allora, Movimax +25%, Mondo TV France +14%, RCS, Rizzoli Corriere della Sera, bene su tutti i titoli, risparmio anche ordinarie, +5,20%, e poi del Monte dei Paschi, dicevamo già, fronte opposto, Elen -5,50, Banca Generali -5, Premuda -4,90, Italcementi -4,86%, concludendo di nuovo però sul listino principale, ST Microelectronics, oggi abbiamo vista parecchio debole, -2,40%. Sì, ha fatto comunque meglio del settore tecnologico in Europa, che è stato veramente pesante. Ieri il Nasdaq aveva perso il 3% proprio su dei dubbi generalizzati relativi alla valorizzazione dei titoli tecnologici, che erano quelli che avevano beneficiato di più del momento positivo. In merito proprio al business di ST, c'è una questione che riguarda i nuovi prodotti Samsung, per i quali ST resta tra i fornitori selezionati dalla società coreana, ma nel 2014 avrà una riduzione di share su questo cliente, cioè di fatto produrrà ancora per Samsung alcune componenti, ma non le stesse che produceva prima, e questo a livello globale dovrebbe influire un po' sul fatturato, quindi è un'altra notizia che è un pochino appesato, ma comunque siamo sul titolo, certo, su un tema generale proprio di debolezza del settore tecnologico. Di nuovo in diretta, arriveremo adesso alla Grecia. Vedo però ancora molti messaggi sulla detrazione IRPEF, meglio, scusatemi, sugli 80 euro in busta paga da maggio. Ha ragione chi scrive, penso che sia un pensionato, i pensionati non prendono niente da questa manovra. È vero, i pensionati, soprattutto quelli che ne avrebbero bisogno, al massimo forse vi sarà una manovra sulle pensioni d'oro cosiddette, però oggi Sole 24 Ore dedica un'intera pagina al calcolo su come il bonus IRPEF premierà alcune fasce di reddito rispetto ad altre. Allora, non per tutti i contribuenti, innanzitutto il risparmio in busta paga arriverà a toccare gli 80 euro al mese, questo varrà solo ed esclusivamente per chi sostanzialmente dichiara sui 24.000 euro lordi l'anno. Giovanni Parente del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Giovanni, voi avete fatto calcolo aliquota, diciamo per aliquota, fascia di reddito per essere più precisi, per fascia di reddito tra chi dichiara 8.000 euro l'anno fino ai 55.000 euro l'anno. Perché cito i 55.000 euro l'anno? Perché se ho ben capito, tra i 35.000 e i 55.000 euro lordi l'anno il bonus sostanzialmente scompare. Però raccontaci dove va a colpire in senso positivo di più. Allora, dalle prime indicazioni che abbiamo avuto sulle ipotesi su cui sta lavorando tuttora il governo, il maggior vantaggio fiscale dovrebbe verificarsi in una fascia intorno tra i 20 e i 28 mila euro, con un picco massimo ai 24 mila euro di reddito dichiarato. Naturalmente stiamo parlando di simulazioni, nessuno avrà un reddito preciso al centesimo di 24 mila euro, comunque orientativamente è quello il punto di maggior vantaggio. Perché come opera questo bonus Renzi? È una detrazione da lavoro dipendente che andrà a sostituire le attuali detrazioni aumentandole, e il vantaggio sarà concentrato dal momento della prima erogazione, quindi al mese di maggio, all'ultima busta paga di quest'anno, che sarà tra dicembre, ma considerando anche che c'è la tredicesima quest'anno. Sì. Quindi gli 80 euro per chi è in quella fascia di reddito dei 24.000 euro si avranno da maggio fino a dicembre. Allora chiedo in regia di sistemare l'audio di Giovanni Parente, perché le sentiamo malissimo. È tutto in distorsione, chiedo scusa agli ascoltatori su questo. Comunque chiaro messaggio: 24.000 euro l'anno, chi è in questa fascia di 24.000 euro dovrebbe ricevere 80 euro in più al mese, e dai 35.000 euro in poi il bonus si azzera. Perché sostanzialmente la fascia di maggiori benefici sarà quella tra i 21.000 e 26.000 euro lordi? Esatto, per come sono state scritte le detrazioni a livello attuale, si tende in qualche modo a favorire quella fascia che noi abbiamo oggi definito redditi medi, ma sono sostanzialmente quelli che hanno dovrebbero essere quei soggetti che, beneficiando del bonus, riusciranno ad avere una maggiore capacità d'acquisto, molto probabilmente. Quindi sostanzialmente si va a favorire quella fascia di reddito lì. Anche tuttora, nella versione attuale, le detrazioni da lavoro dipendente vanno a scemare ovviamente fino ad azzerarsi, certo, al livello di 55.000 euro. Quindi comunque il tentativo del governo, da quello che ci sembra di capire, dalle indicazioni che stiamo ricevendo, è quello di andare a favorire appunto questa fascia media di soggetti che potrebbero poi eventualmente spendere quel bonus aggiuntivo in busta paga e quindi rilanciare in qualche modo la domanda interna. Ecco, un'ultima domanda che in realtà arriva da molti ascoltatori, e cioè, stando al vostro calcolo, diciamo uno guadagna 24.000 euro di l'anno, ha il massimo vantaggio da questo bonus. Due coniugi, poniamo con due figli, ognuno di loro dichiara 24.000 euro lordi l'anno, hanno un beneficio, ognuno nella sua busta paga, di 80 euro lordi, di 80 euro al mese. E 160 in tutto. Se invece c'è un unico coniuge che ne guadagna 48.000 di euro lordi, ma ha a carico la moglie e due figli, quindi non è che si è messo in una situazione idilliaca, lì il vantaggio è praticamente nullo, ho capito bene? Allora, lì attenzione, perché da molti giorni si sta dicendo che questa manovra sarebbe accompagnata da una revisione delle detrazioni per i coniugi e famiglie a carico. Al momento non abbiamo nulla di certo al riguardo, sappiamo soltanto che c'è in arrivo questa manovra appunto sulle detrazioni di lavoro dipendente, però siamo in allerta, siamo in campana per capire se eventualmente dovesse arrivare una rimodulazione, quindi sostanzialmente un peggioramento della detrazione per coniugi a carico. In quel caso purtroppo il bonus per lavoro dipendente rischierebbe di essere quasi annullato o comunque fortemente ridotto dalla riduzione appunto dell'altra detrazione. Però vorrei essere chiaro, al momento non c'è. È una voce che circolava, sì, ma noi non abbiamo ancora avuto modo di verificarla fino in fondo. e 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, molti ci chiedevano a quanto sarà il rendimento del nuovo BTP Italia, la cui emissione partirà lunedì. Adesso lo sappiamo, è appena uscita l'agenzia. Tasso minimo all'1,65%, tasso annuo minimo garantito quindi il cedolare reale, all'1,65%. Tra l'altro l'operazione si concluderà giovedì 17 aprile, salvo chiusura anticipata, se le domande dovessero essere tantissime. Ancora, il Tesoro poco fa ha fatto sapere che le notizie di stampa non hanno alcun fondamento sull'eventuale blocco dei contratti pubblici. Non è contenuto nel documento di economia e finanza e non potrebbe esserlo alcun riferimento a ipotesi di blocco di contrattazione nel settore pubblico. Molti messaggi sono arrivati invece sull'analisi fatta dal Sole 24 Ore su chi sarà il beneficiario degli 80 euro in busta paga. Allora, confermo che è solo per chi ha la busta paga, quindi non per gli autonomi. E invece, attenzione, non è che dopo i 24.000 uno non abbia più niente. Abbiamo detto che il grosso, gli 80 euro, sono per chi ha 24.000 euro di reddito lordo di l'anno, ma se si guarda la tabella del Sole di oggi, per chi per esempio ne ha 28.000 sono 480 euro all'anno come variazione per il 2014, mentre per il 2015, dove dovrebbe partire da gennaio 2014, in parte ce lo siamo mangiati, sempre ponendo caso a chi ha 30.000 euro lordi l'anno, il vantaggio è di 683 euro. Per chi ne ha 35.000 è di 550, quindi abbiamo solo detto che il massimo del beneficio del bonus IRPEF ce l'avrà la fascia di reddito entro i 24.000 euro lordi di l'anno. Prima di arrivare alla settimana sul reddito fisso, colleghiamoci con Vittorio Darold per capire com'è andata la visita di Angela Merkel ad Atene. Vittorio, buonasera. Atene blindata, 6.000 agenti, ma ho visto una Merkel magnanima che dice: sono venuta qui per vedere i progressi che avete fatto, per imparare da voi, per ascoltare le vostre preoccupazioni. E questo complimentandosi con i giovani imprenditori greci e poi dopo aver firmato un memorandum d'intesa per la creazione di un fondo statale di investimenti sul modello di quello tedesco KfW, che è quello che aiuta la liquidità delle piccole e medie imprese. Vittorio. Sì, esattamente, la Merkel ha smesso, diciamo, di fare la faccia dell'austerity, la faccia delle riforme strutturali, la faccia dei tagli ai salari, alle pensioni, e ha portato la prima parte, diciamo, del nuovo round, lo sviluppo, e quindi ha incontrato la Confindustria dei giovani e ha ricordato che ci sono 40.000 nuove aziende create nel 2013, di cui almeno 140 sono delle vere e proprie start-up. In Grecia, quindi, In Grecia ci sono 41.000 nuove imprese, perché dopo 7 anni di recessione proprio più duro è finito, sta riprendendo faticosamente dopo tutte quelle riforme, le digitalizzazioni, la competitività del paese è sicuramente migliorata. Quello che preoccupa la Merkel è la tenuta politica del governo, ed è per questo che è venuta a sostenere Samaras, perché le elezioni europee saranno ancora una volta l'epicentro della riuscita o meno dell'austerity e delle riforme tedesche. Se passano in Grecia, passano in tutto il resto dell'Europa. E mi pare di capire che ormai la Merkel abbia detto e fatto capire che quello che conta sono le riforme strutturali, che potrebbe anche nel caso francese essere un elemento per poter dire, anche se hai bisogno di un pochino più di tempo per arrivare agli obiettivi, su questo possiamo transigere. L'importante è mantenere il passo delle riforme. Beh, speriamo che valga oltre che per il caso greco e francese, anche per il caso italiano, nel senso che se noi facciamo le riforme, allora trattateci, perché non è solo la Germania, almeno come la Francia, che ha chiesto più tempo per il deficit al 3%, noi già siamo al 2,6%, la Francia quest'anno è andata al 4,1%. Senti, mi è sembrata una Merkel, per concludere, molto elettorale, appunto di appoggio elettorale a Samaras, perché ha detto: conosco la difficile situazione che state vivendo e che per molte persone continua tuttora, ma in Grecia ci sono molte possibilità, vogliamo aiutare nuove imprese, la Grecia ha maggiori occasioni nonostante le difficoltà. Cioè, insomma, una Merkel in rosa. Assolutamente, c'è proprio questo timore che possa esserci il sorpasso di Syriza, la sinistra radicale, alle prossime elezioni europee, che potrebbe in qualche modo rimettere in discussione tutto il piano, il cosiddetto memorandum, quindi tutto il piano di riforme e di crediti, e questo sarebbe veramente un grande smacco per la Merkel e tutta la sua politica, perché vorrebbe dire che i greci non credono a quello sviluppo, non credono alla via indicata finora, fatta appunto di riforme, di sacrifici, ma poi anche di ripresa della competitività. Ecco perché lì si sta giocando veramente una partita importante per la Merkel, che oggi ha deciso proprio di entrare a sostegno, proprio decisa a Samaras, che è appunto l'uomo che ha portato avanti con grandi sacrifici, insieme a Giorgio Papandreou prima, e ricordiamo anche Luca Papademos, il numero due della BCE, quindi c'è stato un governo tecnico che ha fatto anche questo grosse riforme. Oggi effettivamente la Merkel ha dato il segnale che in Grecia si sta giocando una partita decisiva per chiudere la crisi dell'Eurozona. Quindi 4 anni fa partì dalla Grecia, quando uscì dal mercato, ieri è rientrata sui mercati, e quindi oggi la Merkel scommette che anche la battaglia politica di questa crisi europea sia finita, comunque stia per allora, finire. Allora, apprezzo il riferimento temporale, a mio avviso però la crisi dell'area euro non l'ha generata la Grecia, era tranquillamente gestibile, ma la gestione della crisi operata da Bruxelles su indicazione tedesca. Su questo io ho un'idea molto netta, cioè avremmo potuto gestire in maniera molto diversa senza dare l'impressione che la Grecia poteva fallire e da lì iniziare e scatenare tutte le speculazioni dopo la Grecia al Portogallo, dopo il Portogallo alla Spagna, dopo la Spagna all'Italia. Questa è la gestione che l'Europa ha saputo dare di questa crisi nata, come tu ricordavi, in Grecia, ma che poteva essere contenuta alla Grecia. Anche perché, nel ringraziare Vittorio Darold, noto che proprio questo attacco speculativo all'euro in questi giorni ha cambiato completamente forma, che dall'idea l'euro terrà, l'euro non terrà, qui siamo ai rendimenti minimi non solo per i bonus spagnoli ma anche e soprattutto per i nostri BTP. Anche oggi un'asta ha toccato nuovi rendimenti ai minimi storici, abbiamo collocato infatti praticamente 7 miliardi 200 milioni di BTP a 3 anni con un rendimento dello 0,93%, e a questo punto il risparmio previsto per lo Stato italiano quest'anno, dovendo pagare meno interessi sul debito, di 9 miliardi di euro, che potrebbero addirittura diventare 15 miliardi l'anno prossimo se si dovesse mantenere questo scenario sui mercati finanziari. Molti ci chiedono: ma come mai, con un'Italia che cresce poco, pochissimo, con la disoccupazione che andrà a record storico anche quest'anno, con una ripresa un po' più intensa l'anno prossimo, ma nulla di strabiliante, c'è questa voglia di comprare debito italiano? E 20 minuti, l'avete già capito, almeno alcuni di voi l'avranno già capito. Professor Giulio Sapelli, buonasera. Buonasera, caro terrestre, come va? Bene, grazie per il terrestre. Senta, ma insomma, lei sta già anticipando quelle che saranno le scelte del governo sui manager pubblici, perché lei ha accettato di guidare gratuitamente il progetto della Regione Lombardia per ridurre a zero la burocrazia, perlomeno quella regionale. E va bene, sarà lo Zeitgeist, dite voi che sapete il tedesco, lo spirito del tempo, immagino che sia, no? No, dunque, questo è un progetto che avevo consigliato al Presidente Maroni alcuni tempo fa, dopo l'emanazione della legge sulle imprese votata all'unanimità dal Consiglio regionale. Si è istituito questo comitato, di cui io sono l'unico componente, perché come lei sa ho una vocazione alla democrazia, no? Quindi io sono il coordinatore di una serie di audizioni che farò io. A se stesso? No, a me stesso, agli esponenti della Lombardia produttiva che hanno difficoltà dal punto di vista della burocrazia, e faremo non una burocrazia zero, perché questa è una burocrazia giusta, e elimineremo, cioè passeremo da quello che io chiamo l'antropologia negativa nei confronti dell'impresa e dell'imprenditore all'antropologia positiva, cioè fiducia, i controlli dove li possiamo fare ex post. D'accordissimo con lei, fate partire anche questo, anche quando non apre un'impresa, fate i controlli minimi. Certamente. Fatela partire, poi fate i controlli e la facciamo partire, dopo pene, faremo e i poi controlli. Pene certe, pene, e dure, certi, ma adesso anche lei chi... non si metta con le manette. Ma che lei, manette, ma che manette? No, professor Sapelli, prima di arrivare al invece ai manager pubblici, perché lei ha fatto parte, ha seduto nel consiglio di amministrazione dell'Olivetti, dell'Eni, di Telecom, di Finmeccanica, di Barilla, di Fiat. Tutte cose, così le ha fatte. Ormai però sono vecchio. Però Olivetti no, perché ero un semplice impiegato. Era un semplice impiegato. Però mi dica una cosa: era troppo giovane per sedere nel consiglio di amministrazione. Certo. Mi dica una cosa: come si spiega questa positività nei confronti del debito italiano e anche spagnolo, e ieri anche greco? E cioè, abbiamo i rendimenti del BOT a un anno al minimo storico, il BOT a tre anni al minimo storico, il BOT a cinque anni al minimo storico. Noi siamo contentissimi, ma ogni tanto qualcuno mi ferma e mi dice: ma come, l'economia è ancora ferma, la disoccupazione è record, cresciamo pochissimo e adesso improvvisamente il debito italiano piace a tutti e noi dobbiamo offrire pochissimo per trovare compratori. Ma dunque è molto semplice, elementare, Watson. Cioè, parliamo del dominio della finanza sull'economia reale, dobbiamo trarne delle conseguenze. Oggi i capitali finanziari si mobilizzano, cioè stanno tornando in Europa e soprattutto verso quei paesi dove è più conveniente comprare degli asset, cioè sono più chips, cioè dove più peggio economico di così non si può andare, Grecia esempio, e che quindi c'è la possibilità di un rimbalzo, no? Questo da che cosa è determinato? Da questa speranza, ma soprattutto dalla grande delusione che l'oligopolio finanziario, quello che lei chiama mercato, impropriamente sarebbe bocciato il mio esame, l'oligopolio finanziario, la grande delusione che ha avuto rispetto ai famosi rendimenti dei mercati emergenti. I mercati emergenti in tutto il mondo stanno o scendendo come crescita o avendo delle instabilità sociali per la rivolta non della povera gente ma delle classi medie che si sono arricchite e adesso richiedono più infrastrutture, richiedono una scuola migliore, richiedono meno corruzione, udite, eccetera, eccetera. Quindi il capitale finanziario, la rendita finanziaria, che poi alcuni chiamano speculazione, si stanno spostando di nuovo nell'eurozona e questo da un certo qual punto di vista fa ben sperare. Perché fa ben sperare? Perché è la moneta che fa il profitto. Sono gli economisti neoclassici Bocuniani che pensano che la moneta sia ininfluente, no? Voglio dire, invece noi abbiamo bisogno di moneta, abbiamo bisogno di investimento a debito, se c'è anche bisogno, perché il credito va messo nell'attività produttiva. Quindi speriamo che questi capitali che arrivino, invece di rivolgersi solo ai bond, ai titoli di Stato, si rivolgono a attività industriali. Anche con anche acquisizioni, no, devo dire una cosa, io temo anche che ci sia un tale eccesso di liquidità dovuta al pompaggio della Federal Reserve e anche un po' della Banca Centrale Europea. Cosa ho detto? Dimentichi adesso quello che l'hanno insegnato in squali di università. con l'ammasso di liquidità che abbiamo messo nel mondo, se avessero ragione quelli che pensano questo, avremo l'inflazione al 2000%. Abbiamo un ammasso di liquidità, c'è stata una dichiarazione di Draghi, di Financial Times oggi, che parla di inflazione allo 0,5%. Amico mio, ma questa è deflazione. Certo che è deflazione. Quindi se tu metti la moneta dove è la moneta non crei inflazione. Tutta questa grande, salvo negli Stati Uniti, dove la posso seguire. Ma quindi per quanto riguarda l'Europa, nel caso dell'Europa, il denaro è andato alle banche, mica è andato all'economia. È quello che stavo dicendo, e temo che poi ci sia anche un vantaggio nel comprare titoli di Stato piuttosto che investire nell'economia reale. Certo. Mi dica però un'altra cosa invece che mi interessa. Visto che veniamo da una settimana, appunto, io con lei ogni tanto faccio il punto del mese, della settimana, di bassissimi tassi di interesse sui BOT e sul nostro debito. Però è stata anche la terza settimana di grande polemica sugli stipendi dei manager. Lunedì sapremo chi guiderà Eni, Enel e Finmeccanica, ma non solo, anche le Poste. Il tema è corretto o no? Se vuole li faccio risentire Renzi, che dice non è possibile che mentre... No, non mi faccia sentire niente, senta Barisoni. Questa polemica non dico giusto. Cioè, lo Stato può fissare lo stipendio dei manager quando possiede le aziende al 100%. Le regie nazionali francesi. Per tutto il resto... E sono le imprese che si devono autoregolare. Io non dico come dicono gli stolti è il mercato che fissa gli stipendi dei manager. Gli stipendi i manager se li autofissano. E quello è il problema. Sì, ma non è con le leggi, non è con le leggi che lei fissa, perché bisogna essere ma scusate, voi siete i corifei o corifei, non mi ricordo più, mi del mercato, certo. E poi però a un certo punto lo volete fermare dove fa piacere. No, devono decidere l'assemblea degli azionisti, sono gli shareholder, sono sovrani, sono loro che devono fissare lo stipendio dei manager. Questa è la buona governance che ci insegna il grande capitalismo anglosassone, soprattutto quello inglese, che fa questo. Lo Stato non deve metterci le mani nella proprietà privata, perché cominciamo con mettere le mani sull'impresa dei medici, poi facciamo le nazionalizzazioni alla nazista, e poi dopo Göring piglia le cose. Quindi questa cosa qui è pura demagogia. Se vogliamo andare avanti con la demagogia di distruggere quel po' di credibilità che hanno i nostri, noi abbiamo dei grandi manager, poi ragazzi, ma noi abbiamo dei manager nelle grandi imprese energetiche che hanno fatto la politica estera di questo paese. Quindi lei dice, Putin, scusi, ma chi parla con che si occupa della Libia? E pensa che sia la Farnesina, ma dai, Barisoni. Allora, senta, invece, quindi lei dice lo si fa per demagogia politica, ma in realtà dovrebbe essere una corretta governance interna a fissare il tetto dei manager attraverso l'assemblea degli azionisti. La sento, mi dica solo una cosa perché devo veramente chiudere, la sento un po' più freddo con Renzi, no? No. Ma io non sono né freddo né caldo col ragazzo che parla veloce, come dicono alcuni. Lo aspetto e penso che abbia fatto già una cosa buona, ha immesso liquidità per creare domanda effettiva, questi 80 euro sono molto importanti, ha un forte segno di discontinuità, deve però ascoltare di più i consigli dell'età adulta. Voli via Sapelli, basta oggi, con oggi basta. Grazie anche a Giulio Sapelli, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Tanto non vi preoccupate che l'uccellaccio tornerà, lo dico a chi dice invitalo più spesso, lo invitiamo. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.